Allora proseguiamo nello studio della Halakha dei tratti caratteriali delle Middot da migliorare. Al comma 10, Seif Yud, del capitolo 29 del Kitzur, la Halakha insegna, e questa seguente è quasi una citazione esatta dalle parole del Rambam, nel Hilchot Deot, appunto nelle regole che riguardano le Midot, i comportamenti e i tratti caratteriali e il miglioramento di questi. Allora dice così: Teva ha'Adam, la natura dell'uomo, uliot nimshach be'ma'asav, è di farsi trascinare nei propri modi e nelle proprie azioni, acharav, achaverav, anchemikomo, farsi trascinare dagli amici, dai compagni, dai concittadini, dalla società in generale. L'uomo è un essere sociale, ok? Quindi il luogo in cui la persona si trova, l'ambiente in cui si trova, le amicizie che ha, tutto questo incide molto sulla natura della persona, sul suo modo di poi comportarsi e di agire. Di conseguenza la Halakha ci invita, lefichach, perciò, tzarich ha'adam litchaber la tzadikim. Perciò una persona dovrebbe stringere amicizia con tzadikim, con dei giusti, leshevet la chachamim tamid, e di frequentare assiduamente i chachamim, saggi, persone sagge, in modo tale che deisce il mod mi maasehem, visto che la persona impara i comportamenti a comportarsi da chi gli sta intorno, a volte anche senza rendersene conto. Quindi, più si troverà la persona in un ambiente di saggezza, di Torah, di Kedushah e di persone di alto livello morale, più potrà assumere il comportamento corretto. Veitrachek minareshaim, e la persona dovrebbe cercare di allontanarsi dagli malvagi, aholchim bachoshech, che come dice il versetto, che procedono nell'oscurità. Perché? Di nuovo, kedeishe lo ilmod mimasehem, perché non impari dai loro comportamenti, e quindi non assimilare il loro modo di fare. Amar Shelomo Amele Chalav Shalom, disse il re Salomone, Holech et chachamim yechkam, colui che va insieme ai saggi rinsavirà, yechkam, diventa chacham, veroè kesilim, e chi frequenta gli stolti, yeroa, si rovinerà, yeroa da ra, da negativo, cattivo. Veomer, ashrei haish vegomer, e il versetto dice, il primo versetto di tutto il libro dei Salmi, dei Teilim, Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat resha'im, beato l'uomo che non procede secondo i consigli o i modi o le indicazioni dei malvagi. L'ultima frase di questo comma dice: Ve'im udar be'ir sheminagei ha'raim, se shemanigei ha'raim, se una persona abita in un luogo in cui le guide di questo luogo, di questa città o di questo paese, sono cattivi, cioè non hanno un livello morale giusto, ve'en anashea olchim bederech yeshara, e anche la popolazione, le genti del posto, non camminano, non proseguono su una strada dritta, allora yelech misham, la persona dovrebbe trasferirsi via da questo luogo e andare appunto a vivere la dur be'ir in una città she'anasheha tzadikim ve'noagim bederech tovim, le quali genti sono giusti, giuste e si comportano bene, hanno un buon comportamento. Quindi è chiaro che non è una cosa semplice quello che sta dicendo qui. Però ci fa capire l'importanza che la Torah, gli insegnamenti dei maestri, l'importanza che pongono sull'ambiente nel quale la persona si trova. E non solo l'importanza dell'ambiente, ma anche la responsabilità che che viene data alla persona, che la persona spesso è portata a dire, non è colpa mia, è colpa dell'ambiente, è colpa della società. E allora la halakha ci responsabilizza però, la halakha non ci dice di essere passivi nei confronti di quello che succede nella società, e ci dice addirittura che se la società è tale da non poter, di non essere in grado, che non siamo noi in grado di trovarci in quella società, diciamo, senza assimilare i loro comportamenti, eccetera. Allora la halakha ci dice non bisogna essere passivi, bisogna essere attivi, bisogna trovare un altro luogo. Cioè, non bisogna... come spesso accade, diciamo, lasciar fare o lasciar andare, perché così è la situazione. Ecco, adagiarsi sulla situazione, perché tanto non è in mano mia, è la situazione. La halakha mi dice, devi porti nella situazione più voluta rispetto a quella non voluta. Ok, quindi questo è, oggigiorno abbiamo la possibilità di trovarci in tanti ambienti diversi anche in una sola città, perché certo, vivendo nelle metropoli più che altro abbiamo la possibilità di scegliere gli ambienti che vogliamo frequentare, eccetera. Quindi è meno incisiva la cosa, guarda, non va bene questa città, trasferisciti a un'altra, però anche tra una zona e l'altra, anche nel modo, soprattutto le frequentazioni che assidue che teniamo, è una cosa che nella quale dobbiamo essere attivamente i protagonisti e non solamente passivamente. Questo credo è un concetto molto generale che riguarda anche molti altri aspetti della vita ebraica, no? Una regola di vita. Sì. Una regola di vita, giusto. Ora la halakha prosegue la prossima pagina. Nelle nostre fotocopie, che è il comma 11, Yud Alef, e ci dice che addirittura esiste una mitzvah, mitzvat asse, una mitzvah positiva della Torah, lehidabek betalmidei chachamim, di, letteralmente significa attaccare, essere vicini, molto vicini, devekut, ai talmidei chachamim, e cioè frequentarli spesso, che del il mod mi masehem, anche questo al fine di imparare dal loro comportamento, kinyan shenemar, come detto nella Torah, nel libro di Devarim è scritto uvo tidbak, e si unito a lui. A lui è un riferimento ad Akadosh Baruch Hu nel versetto. Allora i maestri, commentando questo nella Gemara e in altre fonti, dicono: ma com'è possibile essere uniti ad Akadosh Baruch Hu se noi siamo esseri umani? Vechi efshar le Adam le hidabek bashechina, è forse possibile per l'uomo unirsi alla presenza divina, ad Akadosh Baruch Hu, alla Shechina? Bensì, qual è il senso di questo versetto? Ela, kach per shur aboteinu zichronam libracha, così spiegarono i nostri maestri, e cioè, hidabek betalmidei chachamim, no? Unisciti ai maestri di Torah, ai talmidei chachamim, e a chi si comporta secondo un comportamento di Torah, lefichach, perciò, per unirsi sempre di più ai talmidei chachamim, se una persona stessa non è un talmid chacham, ma vorrebbe unirsi ai talmidei chachamim, tzaricha adam lishtadel, la persona dovrebbe cercare ad entrare anche in rapporti di famiglia con talmidei chachamim. Per esempio, sheisa ba talmid chacham, una persona cerca una moglie, cerca una figlia di un Talmid Chacham. O Yassi Bitole Talmid Chacham, fai sposare tua figlia con un Talmid Chacham. Velechol velishtotim Talmidei Chachamim. Oppure frequenta socialmente Talmidei Chachamim, a mangiare e a bere insieme a loro. Velasot prakamati al Talmid Chacham. Anche per affari, cerca di fare affari con Talmidei Chachamim. Ulitchaber alehem bechol mine chibur. E quindi, in generale, di instaurare con loro qualsiasi tipo e ogni tipo di rapporto, ogni tipo di legame. Ce ne è mar, come è detto appunto, sempre in Devarim, uledovka bo, di essere attaccati, uniti a lui. Chenzi vura boteinu zichronami brachavi amru, e appunto per questo i nostri maestri hanno istruito ed hanno detto nella Mishnah, molto ben nota del Pirkei Avot, le massime dei padri, Heve mit abek ba afar raglehem, riguardo ai chachamim, dicono impolverati con la polvere dei loro piedi. Veshote batzama e divrehem, e bevi avidamente le loro parole. Quindi abbiamo visto in queste ultime due halachot l'importanza e la mitzvah che esiste innanzitutto nella seconda fase che abbiamo visto, quella di unirsi il più possibile alla presenza, di essere alla presenza dei Talmidei Chachamim e unirsi a loro in vari qualsiasi tipo di maniera, non solamente quindi nell'andare ufficialmente a studiare una lezione, ma anche in qualsiasi modo perché il proprio ambiente sia un ambiente di Talmidei Chachamim e quindi il proprio comportamento rispecchierà poi quel tipo di comportamento morale alto, elevato. E abbiamo visto nella prima parte che in generale nel scegliere un luogo dove stare o nel scegliere un ambiente o nel scegliere una frequentazione bisogna fare attenzione a non farsi tirare da frequentazioni che non sono positive, perché in effetti non c'è nessuno, cioè chi è più socievole e meno socievole come carattere, ma come esseri umani in generale siamo in molte maniere influenzati da ciò che avviene nella nostra immediata vicinanza, nel nostro ambiente più vicino soprattutto. Quindi questo è il rapporto che ci dovrebbe essere tra la persona e i Talmidei Chachamim, e chi dovrebbe istruire, chi dovrebbe essere un esempio. Qui vediamo anche un'altra cosa importante che va sottolineata, cioè il Talmid Chacham non è solamente colui che sa studiare la Torah. Perché se fosse solo per lo studio, allora si parlerebbe di andare ad imparare. Qui stiamo parlando di socializzare, perché? Perché il Talmid Chacham dovrebbe rappresentare un alto livello di comportamento giusto secondo la Torah, non solamente di studio accademico. Si parla di conoscenza, ma di criterio di vita. Esattamente, quindi giustamente non si parla di conoscenza, ma di criterio di vita, di tipo, di modo di vita, di modo di comportamento, di modus vivendi, diciamo così. Quindi questo è molto importante quando si parla di Talmidei Chachamim. Nelle fonti classiche, nelle parole dei Chachamim, non si intende solamente qualcuno che ha magari una cattedra in università per Talmud, però magari nel comportamento, e potrebbe essere anche un grande genio di Talmud o di qualsiasi altra cosa di Torah, però potrebbe non essere un esempio di comportamento. Quindi non di questo stiamo parlando in questo contesto. Stiamo parlando. Se uno deve imparare, è quasi automatico e ovvio che vada da qualcuno che ne sa di più. Quindi certo. È proprio per. Sì. Oh. Ora vediamo invece l'aspetto nel sociale, sempre nel socializzare. Sì, prego, dica. Non c'era. Sicuro? Sì, certo. C'era un proverbio napoletano. Ah, qual è il proverbio? Fatelo con chi mai chiede e fagli spese. Pur di fatela con chi è migliorete, pagagli tutte le spese. Ah, ok. Quindi vale bisogna, pena, è giusto, quello che abbiamo detto, bisogna anche impegnarsi e investire magari per cambiare la propria situazione, però bisogna farlo. Allora, al 12, Yudbet, mitzvah al kol adam, è sempre una mitzvah positiva, un precetto affermativo della Torah, lehov et kol echad vechad Israel ki gufo, di voler bene a ogni individuo di Israele come a se stessi. Ce ne mar, come detto nella Torah, sempre nel libro di Devarim, di Vaikra, ve'ahavta le'reacha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso. Per questo, lefichach, tzarich lesaper beshivcho, per questo una persona dovrebbe lodare il prossimo e non parlarne male. Da dove viene la Lashon Hara? E la Lashon Hara è anche l'opposto di questa mitzvah. Quindi chi ama il suo prossimo non parla male, parla bene. Velachus al mamono, e anche prendere e aver considerazione della dignità e del denaro dell'altra persona. Kmoshe uchas al mamon shelo, così come una persona prende in considerazione il proprio denaro, cioè non vuole che sia sprecato o perso, allora anche un bene che appartiene ad un altro, bisogna avere lo stesso tipo di considerazione. Verozze bichvodatzmo, così come vuole il proprio rispetto e la propria dignità, nella stessa maniera deve pensare al rispetto e alla dignità delle altre persone. E colui che invece si comporta in maniera opposta, Vehamit Kabed di Kelon Haverò, quindi colui che se ne approfitta, no? Della debolezza. Kalon è anche la vergogna o la debolezza di un'altra persona. Afal pishe en haverò medsham, anche se quell'altra persona non è lì presente in quel momento. Quindi non è stato svergognato, in pratica. Velo higia lo boshet. E non è che è stato svergognato, velo biyeshu. Biyesho, o anche se la persona non ha neanche detto una cosa che lo svergognerebbe, ma solamente, per esempio, ela arachma asava tovim vechochmato, magari ha fatto presente, ha fatto riferimento a questa persona, come fa queste belle cose e come è intelligente, a differenza di quest'altra persona, Lemul Maaseh Haverò Chochmatò. Ok? Meglio, lui mette a confronto le proprie azioni buone e i propri comportamenti rispetto a quelli di un altro. Allora, io ho fatto così, però quest'altra persona non ha fatto così, ha fatto così. Cosa deriva da qui? Che desce Yerahem Miklalosh un mechubad v'chaverò basui. Significa, io sono più degno di onore rispetto a quell'altro. Addirittura c'è scritto un comportamento di questo genere, En lo chelek la'olam haba. Una persona che si comporta in questa maniera, i maestri dicono, che non prende la sua parte nel mondo a venire, la ricompensa dopo la vita, ad sheyashuv b'teshuvah shelema, finché non fa una teshuvah completa per venire via, per non tornare su questo tipo di comportamento, su questa strada. Piero, dica. Se risulta la sciarara, pure se uno parla bene della persona. Potrebbe, lo vedremo più avanti, nelle regole della Lashon Hara, potrebbe a volte nel parlar bene risultare una cosa negativa. Ora, vediamo la prossima halakha, parla sempre di rapporti interpersonali. Un altro divieto che c'è nella Torah è quello di, non solo il precetto di voler bene, di amare, ma anche c'è il divieto di odiare. Kol hasone echad mi Israel belibo, chiunque tiene nel proprio cuore, quindi neanche esprimendolo questo odio, ma tiene l'odio in cuore, ovver belot ase, contravviene a un precetto negativo, perché è scritto Shenemar, lotisna et achicha bilvavecha, non odiare tuo fratello in cuor tuo. E vedremo anche più avanti diversi aspetti di questa cosa. Però qui stiamo dicendo che se una persona si è comportata male nei tuoi confronti, non bisogna tenere quell'odio in cuore, ma bisogna esprimere, vediamo in che maniera. Se una persona gli viene, pecca, diciamo, nei suoi confronti, lo yistemenu veyishtok, non deve odiarlo in proprio cuore e rimanere in silenzio. Che Moshe ne Mar Bareshaim. Questo è un comportamento che è detto nelle fonti riguardo i malvagi. Cosa è scritto riguardo i malvagi? C'è scritto che Avshalom, che era uno dei figli di David Amelech, ok? Velo diber Avshalom et Amnon meuma le merave atov ki sane Avshalom et Amnon. Se non sbaglio, Amnon era un mezzo fratello di Avshalom. Poi controllo, credo che era anche lui un figlio di Avimelech, di Avshalom, di David Amelech, scusate, e non andavano d'accordo. Avshalom odiava Amnon e c'è scritto che non gli riferì la parola, né in bene né in male, perché odiava Amnon. E questo non è un comportamento voluto dalla Torah, non solo, ma è una mitzvah negativa. Non si può fare così. Invece quello che si deve fare è il contrario, cioè parlarci. È la mitzvah alav lehodio. Gli deve far sapere, guarda che hai peccato nei miei confronti. Velomarlo e dirgli, Lama asita li kach ve kach, perché mi hai fatto così e così? Lama chatata li bedavar ze, perché hai peccato nei miei confronti in questa maniera? Questo esprimere, questa cosa è una mitzvah. Sheneemar, come è detto, Ocheach, tochiach et amitecha, dovrai ammonire e riprendere il tuo prossimo. Ora, se gli esprimi il problema e la persona dice effettivamente ho sbagliato, vim chazar, se torna, cioè si pente, ubikesh mimeno limchollo, e gli chiede per favore perdonami, io gli dico guarda che tu hai peccato nei miei confronti in questo senso, e lui dice ok, hai ragione, per favore perdonami, tu hai l'obbligo di perdonarlo, tzarich limchollo, bisogna dargli il perdono, veloye achzari, la persona non sia cattiva, non sia, sarebbe una cattiveria non perdonare. Sheneemar vaitpalel Avraham el Elohim, come detto riguardo Avraham, quando Avimelech ha peccato nei suoi confronti, Avraham ha detto, gli ha esposto il problema, Avimelech si è scusato e ha detto per favore prega per me, e Avraham ha pregato per Avimelech e lo ha perdonato. Solo un secondo. Ok. E sinata beriot, ciò che si dice riguardo l'odio tra le persone, cosa significa? Keitzad, in che senso? Melamed, questo ci insegna, shelo yechaven adam lomar, che una persona non abbia l'intenzione di dire ehov et hachamim usna et talmidim, ama i saggi e odia gli allievi, chi ancora non è saggio, oppure ehov et talmidim, oppure ama chi studia, i talmidim, gli allievi, usna et ameare, cioè odia gli ignoranti, no, ela ehov et kulam, tutti vanno voluti bene, amati, usna et apikorsim vamesitim vamedichim vechen amosrim, c'è solo una categoria dove è permesso per la Torah l'odio nei loro confronti, e qual è questa categoria? Tradotto si direbbe gli eretici, chi induce il prossimo all'idolatria, e i mosrim sono i delatori, coloro che vanno a raccontare, a denunciare il prossimo, e potrebbero metterlo in difficoltà, a volte anche in pericolo, soprattutto una volta quando per ogni cosa ci poteva essere una pena capitale in molti paesi, allora è ancora più importante, ma ancora oggi vige questa cosa, di non essere un delatore nei confronti di un nostro prossimo. E il David Amelch dice, Chen David Amar, Mesanecha Hashem Esna, Uvit Komemecha Et Kotat, e cioè, prova, non dovrei odiare, o Signore, coloro che ti maledicono? Non dovrei affrontare coloro che si ribellano a te? Li detesto di un odio estremo, mi sono diventati avversari. Quindi chi è considerato un eretico, chi porta l'idolatria, è considerato un avversario, per così dire, di HaKadosh Baruch Hu, che odia, tra virgolette, HaKadosh Baruch Hu, e va odiato. Lì c'è sì il sentimento di odio nei suoi confronti, ma solo in queste piccole, poche eccezioni. Allohu omer, ve'avta l'reacha kamocha, ani Hashem. Il versetto intero che dice ama il tuo prossimo come te stesso, conclude con ani Hashem, io sono il Signore. Significa, qual è il motivo? Matam, per quale motivo ama il tuo prossimo? Perché ani, perché io il Signore l'ho creato anche a lui. Ok? Allora, se il comportamento di quella persona sono conformi al comportamento di un ebreo, imose maase amcha ve'avta l'reacha, ama il tuo prossimo, cioè chi partecipa come te, come tu dovresti, in quello, nella vita ebraica e nelle mitzvot, allora va voluto bene, c'è la mitzvah di ve'avta l'reacha kamocha, ve'im lav, ma se non rientra in questo, iata ohavo, come abbiamo detto prima, ci sono le eccezioni che non vanno amate, vanno odiate. Però la domanda è nella via di mezzo, dove ognuno potrebbe un po' rientrare nel mitzvot e un po' non rientrare nel mitzvot. Allora c'è una cosa di base che è scritta nel Tanya, che anche laddove bisogna avere un atteggiamento o un sentimento di, tra virgolette, disprezzo nei confronti di una persona per un comportamento non conforme, non è un disprezzo che interessa tutta la persona. In altre parole, la persona dovrebbe poter distinguere: io a questa persona gli voglio bene per il bene che rappresenta e voglio male la sua parte negativa. Quindi non è più il classico, la classica distinzione odio o amore. No, è molto più complesso. Nel caso di chi va escluso totalmente, come abbiamo detto, chi incita all'idolatria, queste sono cose di grande eccezione che probabilmente non esistono neanche oggi. Però nel classico caso normale, nessuno è perfetto e dall'altra parte nessuno ha non ha qualche difetto. D'altra parte nessuno non ha qualche pregio. Allora l'amore è verso la parte positiva della persona, quindi non va buttata via, e il disprezzo nei confronti della negatività rappresentata da quella persona. Quindi è come un abbraccio da una parte e una respinta dall'altra, e quindi è un equilibrio che bisogna tenere e cercare di, appunto, mantenere anche questi rapporti dove una persona potrebbe dire: ah no, forse non vorrei mantenerlo. No, bisogna avvicinare attraverso il voler, la parte voler bene alla parte positiva, allora si riesce a magari far rientrare anche la parte negativa. Che poi è quello che fa.